suppongo che ci siano anche dei bordelli, come vengono chiamati, per le donne, perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Facciamo un appello pure noi, David, facciamo un appello pure noi, perché al professore emerito Vittorio Sgarbi, al professore emerito perché Vittorio è emerito? Sgarbi, no, è emerito, così lo dico io, è sempre emerito Sgarbi, qualsiasi cosa dica, anche se dice delle puttanate. Sgarbi è Sgarbi, non c'è niente da fare. Beh, è così, anche se dice puttanate, anche se esagera, anche se sbrocca, è Sgarbi. Allora, al professore Sgarbi hanno rubato l'iPhone, che poi in realtà non sapeva avesse l'iPhone. Cioè, pensavo avesse il Samsung, l'ultima volta l'ho visto con quel telefono lì, nuovo, che non sa usare, un casino tremendo, non è molto tecnologizzato. Fino a poco tempo fa, sai come girava? Con quel Nokia, sai il Nokia che si alzava? Sì, che tirava su gli occhiali. E tirava su la... Batteva, scriveva, contemporaneamente uno telefonava, tu sai, capra, Basolini! Batteva sul Pasolini? Telefonino. Sì. Hanno rubato l'iPhone. E la mole! La mole antonelliana! Cosa avete fatto? Quel sindaco, quel cornuto! E a Canicattì cosa? Io Bergamo! E a Canicattì. E batteva sul telefonino. Allora, hanno rubato il telefonino. Sì, è molto grave questo. A una stazione di servizio sull'autostrada. Sì, aprire perché una giornata come questa è giusto aprire con questa cosa. Ma no, c'è cazzo oggi, perché che è successo? Sì. Secondo te è successo qualcosa? St'articolo 18 sarà una sola pazzesca. Non ho criticato, ho detto che è giusto. Non succederà nulla. Secondo l'ordine delle notizie. Diciamo una cosa seria. Sì. Secondo uno dei più bravi economisti italiani, esperti di diritto del lavoro, si chiama Tiraboschi. Professore. Così com'è formulata questa cosa non cambierà nulla. Zero. Per quello che riguarda il mercato del lavoro, le assunzioni, la gente che cerca lavoro, zero. No, ma che dicevo, chiusa parentesi, il signore al-Baghdadi ha decapitato tre donne kurde, poi c'è l'Ista, quello per me è l'unico califfo che riconosco, è coso, è l'unico califfo, è quello che avete sentito prima, è come si chiama? Califano. Pace all'anima sua. Hanno rubato il telefonino a Sgarbi. Appello di Sgarbi, prendetevi tutto quello che volete, ma ridatemi i dati, vuole. Poi non si capisce come, cioè dovrebbero palesarsi i ladri dicendo l'abbiamo rubato noi, ecco i dati, mi sembra un po' difficile. Comunque ci uniamo a questo appello qui dalla Zanzara, Sgarbi ovviamente l'ha detto alla gabbia, qui alla Zanzara, grande trasmissione della sera, Radio 24, quello che volete, Cruciani, Parenzo, ladri del telefonino di Sgarbi! Siete sicuramente ascoltatori di questa trasmissione. Ridate il telefonino, tanto non ci fate nulla, ormai i telefonini non servono a niente, non serve a niente rubare i telefonini. Ridate il telefonino al professore. E sappiamo dove siete anche. Sì, no, ma soprattutto vi abbiamo localizzato. Discoveremo ovunque voi siate. Esatto. Non sapete un cazzo, continuate a parlare l'iPhone. Ma ti pare che è un argomento, invece di parlare di Raffaello, parli dell'iPhone. Io a proposito devo dire una cosa. L'altra notte a San Martino, Parma Ovest, ho appoggiato il mio iPhone 4 pieno di notizie meravigliose, con una quantità di figa senza fine, me l'hanno rubato. Vorrei che quello lo restituisse, perché non è che quello si può utilizzare il bene mio. Esatto. Perché non è comunque transitabile. Sono antiprostitute, ragazze tutte nobilissime, dolcissime, tenerissime. Senti, è una banca dati. È una banca dati, questi stronzi cornuti. In realtà Sgarbi lo vuole perché c'è una quantità di figa senza fine. Sì, questo è spettacolare. Speriamo che no, io gli posso dare a chi ha preso il mio telefono 1000 euro. Ah, okay, per riavere allora dietro i dati, poi si possono vedere. È un appello. iPhone 4 San Martino Parva Ovest. Questa è la notizia a servizio pubblico. Per il resto. Non gli vuoi dare il tuo libro? Costa poco, non credo che gli basterebbe. Comunque potrebbero imparare delle cose. In ogni caso, se tu. No, adesso a parte di scherzo. Ecco, invece no, di parlare di iPhone, parlassi ogni tanto di qualcosa che ha a che fare con le nostre cose, almeno aumenterebbe il turismo. No, no, okay. Allora, offre 1000 euro, ragazzi, 1000 euro sono 1000 euro, cioè, poi non so se ve li dà il professore 1000 euro, però chiunque di voi, ladri incalliti, maledetti, cornuti e figli di puttana, chiunque abbia rubato l'iPhone di Sgarbi, 1000 euro ve lo li dà, non vi denuncia, 1000 euro, rivolgetevi anche a noi, la zanzara è radio24.it, oppure chiamateci in diretta, abbiamo noi il telefonino di Sgarbi, se non l'avete già rivenduto a pezzi, se non l'avete dato agli albanesi di turno, eccetera, eccetera. Che battaglia stamattina, mattino 5, mi sono svegliato un po' assonnato, stavo leggendo il giornale, a un certo punto scanalando ho visto il nostro amico Buonanno. Ma non hai visto, grande, non mi hai visto Omnibus, grande show, vabbè, tu hai chiacchierato e basta, insomma, in maniera normale, in maniera molto pacata, in maniera molto molto pacata. Innanzitutto Buonanno è partito così, secco: gli immigrati portano l'ebola e la tubercolosi, così secco, senza proprio piatto. Sì, secco. Intanto l'immigrato che arriva clandestino, poi bisogna anche vedere che malattie ha o che magari si porta dietro, e quello perché, è già un problema importante. Perché sono portatori di malattie. Vabbè, mi sembra scontato di quello che succede, arriva la malaria in Veneto, c'è cioè la tubercolosi, il virus Ebola, non mi sembra che sia una stupidaggine che dicono a livello mondiale può essere veramente un disastro. E poi ha combattuto con Diaco, con Pierluigi Diaco. Il mitico Diaco, mio amico, che lavora a RTL, sentite. Di cattivo gusto e inelegante il fatto che si esordisca parlando di malattie di fronte a un dramma che vede la morte di bambine e di donne. No, mi scusi, Buonanno, lei è lo stesso esponente che qualche settimana fa su una radio importante ha dichiarato di voler schedare gli omosessuali per dargli il trattamento sanitario obbligatorio. Lei è un uomo, mi lasci finire di parlare, io l'ho lasciato parlare. Vede qual è il suo vocabolario? Intanto che non ho detto quello che lei ha detto sugli omosessuali, di schedarli, non l'ho detto io, l'ha detto Cruciani. E poi, non io. Va bene, dopodiché poi sono stato eletto da 21 anni in maniera diretta dalla gente, credo di non essere né razzista né contro qualcuno, quindi si informi meglio, signor Diaco. Dopodiché le dico anche questo: io di extracomunitari da sindaco ne aiuto tanti, ma a differenza sua e due suoi amici di sinistra, invece solo di blaterare e di fare teoria, io faccio permette? La pratica. Chi ma viene da me, permette? Chi mi faccia finire, visto che lei è tanto educato, mi faccia finire visto che è tanto educato comunista. Io non accetto che in una trasmissione di servizio un deputato della Repubblica si permetta di rivolgersi a un giornalista indipendente aggettivandolo come comunista. Sì. Lei è una persona sgradevole dal punto di vista umano, professionale. Lei tradisce i valori del partito a cui appartiene. Lei è una persona mediocre umanamente e si commenta da sola. Se allora, lei è indipendente, scusate, io sono omosessuale. Se lei è indipendente, io sono omosessuale. Va bene, Parenzo, ci sono un sacco di cose di cui parlare, eh? Ci sono un sacco di cose, molte cose di cui parlare. Ma la cosa pazzesca, tu hai letto nei giorni scorsi questa cosa della marijuana? Cioè, la marijuana in carcere con Tsipras. Certo. Cioè, praticamente una attivista no global che è entrata a Regina Coeli come assistente dell'europarlamentare Forenza ha cercato di consegnare dell'erba a Derme, Nunzio Derme, uno che è in carcere. Ma la cosa pazzesca. Sì, poi ha detto che nessuno lo conosce questo qua, a parte che non è spuntato fuori il nome. Tirate fuori il nome di questo tizio, ma io non ce l'ho con lui. Va benissimo che consegni della marijuana purché sia dalla quantità prescritta dalla legge. Qual è il problema? Perché bisogna vergognarsi? Sì, credo. Che ne sai che non si può? Se è la quantità giusta si può, e come? Non mi risulta, ma. Ma è con noi! Beh, grande protagonista in questi giorni. Ha parlato al telefono con Berlusconi, ha ospitato la Pascal Gay Village, Vladimir Luxuria. Buonasera, ciao Vladimir. Buonasera. Come ciao, stai? Gianni. Come stai, Vladi? Bene, grazie. Allora, innanzitutto, oggi c'è una cosa fantastica, c'è scritta su Libero, credo, ed è questa. Berlusconi di solito quando si faceva passare qualcuno al telefono, un Vladimir al telefono di solito era Putin, non era Luxuria. Come cambiano i tempi, cioè, una volta se chiamava qualcuno al telefono un Vladimir non eri te, no? È impensabile, certo, questa cosa, che tu abbia parlato al telefono con Berlusconi, è una cosa incredibile. Ma è mica la prima volta che ho parlato con Berlusconi. Vabbè, questa volta ci ho parlato. Scusa, quando è che ci hai parlato altre volte? No, vabbè, l'ho conosciuto, la prima volta che l'ho conosciuto personalmente è stato in un camerino del Maurizio Costanzo Show. Era il ventennale, lui era venuto come ospite, e io avevo organizzato una sfilata di drag queen sul palco del Teatro Parioli, sì. E lui entrò nel camerino, vide tutte queste drag queen e disse un saluto a tutte queste signore, ecco. Ah, così. Ma ci hai parlato altre volte per telefono pure, no? No, questa è stata la prima volta. Vabbè, comunque, adesso al di là di quello che ti ha detto, che già grazie tu... alla signora Pascale, questo che... Beh, sì, certo, grazie alla Pascale, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, grazie alla Pascale. Ecco, io voglio chiederti una cosa, ma alla fine ti ha detto al telefono, dimmi le parole esatte che ti ha detto al telefono Berlusconi, cioè lui è favorevole al matrimonio, perché Gasparri ha detto non dica stronzate, Luxuria, Berlusconi non è favorevole al matrimonio gay. Cerca di chiarirci un po' le idee su questo punto. Ma intanto Gasparri si deve fare una ragione, mi sa che tra lui e Pascale Berlusconi ama più la Pascale, quindi si deve un attimino rendere conto che è minoranza, minoranza. Detto questo, io allora, lui non mi ha detto sul matrimonio, mi ha però invitato a pranzo, a cena, per discutere più dettagliatamente di questi temi. Ah, per cui andrai ad Arcore? No, non o a Palazzo ad Arcore. Ma tu ci andresti ad Arcore a cena? Sì. Perché non ci dovrei andare? E che ne so, sai, Arcore, c'è questa cosa, andare a dare. Una volta che c'è Renzi è successo un casino. Arcore, le cene eleganti, il luogo della perdizione. Ma io non sono nessuno, ma chi sono io? Non sono mica un futuro presidente del Consiglio, non sono nessuno. Sono una persona che cerca di parlare con uomini e donne di buona volontà, no? Sì. Io non ho steccati ideologici, non l'ho mai avuti, anche quando Mara Carfagna, il ministro delle pari opportunità, e fece una campagna contro le discriminazioni, andai alla conferenza stampa insieme a Anna Paola Concia, quindi figurati. Non cioè tu andresti l'altro... tranquillamente ad Arcore a cena con Berlusconi? Sì, io non è che mi chiedo se ci devo andare o non ci devo andare, l'unica domanda che mi posso fare è cosa mi metto, cioè cosa posso indossare, ecco, questa è l'unica domanda. Andresti pure a visitare la famosa sala della lap dance, dove c'è quel, no, giù ad Arcore? Ma così magari posso prendere pure qualche ispirazione. Ma secondo me non sei secondo me però non sei il tipo di Berlusconi. Ma guarda, io non credo che parlare con Berlusconi significhi berlusconizzarsi, passare dall'altra parte, come qualcuno ha scritto. Io credo semplicemente che soprattutto in Italia, dove il centro-sinistra, diciamoci la verità, no, ci ha preso per il culo per tanti anni, vedendoci come persone che servivano solo quando bisognava prendere i voti, e poi una volta che si arrivava al governo tutti i temi dei diritti civili andavano sempre a finire in fondo all'agenda, perché c'erano emergenze economiche da affrontare, tra l'altro neanche risolte. Quindi a questo punto io, che mi sono rotta le ovaie di gente che ci prende per il culo, le ovaie. Beh, le palle ancora ce l'hai, le palle adesso e valorizziamole in senso metaforico, ovviamente. Ah, ecco, in senso metaforico, cioè ce l'hai ancora e valorizziamo. Ma che tu sei ossessionato come la Michaela Biancofiore, non mi dire questo. No. Io figurati, sono ossessionato con la mia cosa. Io dico, la Vladimir Luxuria è una persona normale, non come dice la Biancofiore, diversa, contronatura, cioè normalissima, normali, uguale agli altri. Qual è il problema della Biancofiore? Qual è, secondo te? Qual è? Allora, io mi accorgo che dopo una settimana o 10 giorni che non faccio sesso, comincio a diventare un po' nervosa, sinceramente, anche un po' isterica. Sì. E ho bisogno veramente di farmi una bella ripassata a letto, e mi sveglio il giorno dopo come sono tranquilla, rilassata, in pace con me stessa. Ecco, visto che la Biancofiore è ossessionata dalle trans col gingillo, una donna che non ha l'invidia del pene, ma semmai la nostalgia, io faccio un appello alla... Cioè, si trovi qualcuno che se la trastulli, che se la ripassi un attimo, si che può anche dire dalle mutande, perché veramente questa donna, secondo me, con questa espressione da tartaruga stitica, che si intromette sempre nella vita sessuale degli altri, ha bisogno di farsi una bella notte di sesso. Con noi la grandissima Vladimir Luxuria. Vladimir Luxuria, caro Parenzo, voglio chiedere subito: ha incontrato la Pascal, ha portato la Pascal a Gay Village, una delle grandi rivoluzioni della politica negli ultimi anni. Io questo lo devo dire, vero, perché vero. Succedono tutte cose, insomma, sì, l'articolo 18, ma poi chissà, i provvedimenti. Invece, grande rivoluzione, la Pascal al Gay Village. Beh, oh, ragazzi, bisogna. Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. No, scusa, però, io voglio chiedere una cosa a Vladimir: ma chi è il politico con cui hai una storia? Perché qui sei stata ipnotizzata da Giuca Scasella, però era un'ipnosi un po' finta, diciamo la verità. Cioè, ma come no? Dai, su. Ma è vero o no? C'è un po', ma no, il nome non no. È vero, dai. È di destra o di sinistra, dai. Almeno? Ma dai, ma non o di centro. Spero solo che faccia centro, guarda. Se vabbè, quello sono. No, ma non c'è un politico, non mi piacciono i politici, non mi piacciono. Beh, un uomo importante era un politico, ho detto un politico importante. Non ricordo, ero sotto ipnosi, non ricordo, e comunque era uno scherzo, dai. Era uno. Comunque, la Pascal è meglio di Scalfarotto, secondo te? Si può dire che è molto più avanti di Scalfarotto? O di, non voglio dire. Della Lario sicuro, di Veronica Lario sicuro. No, guarda, ma di sicuro di Agnese Renzi, forse questo lo posso dire. Sì, ho letto di Agnese Renzi. Ma come sai, Agnese Renzi? Che Agnese Renzi è contro il matrimonio e altre cose? Ma allora, intanto voglio subito dire che rispetto, insomma, di Nolfi, ho visto che ha scritto delle cose. Beh, perché eccetera. Tu hai detto cattolico osservante, dunque sicuramente no, contro. No, io allora, una cosa è dire cattolico osservante, altra cosa è dire bigotta. Le due cose non sono sinonimi, lo voglio subito dire, perché c'è subito stato questo fraintendimento. Conosco tante persone che sono cattoliche osservanti e le rispetto, però ci sono tante persone che sono cattoliche osservanti e che rispettano pure il concetto di laicità dello Stato. Per cui uno dice... quello che per me è peccato non è che d'accordo, deve diventare però forse quando un reato. Tu dici che il problema è Agnese Renzi, perché? Perché dici? Perché se, allora io credo che Matteo Renzi abbia un problema proprio in famiglia, nel senso lui ha avuto una formazione molto molto rigida, e credo che la stessa sua premier dame sia una donna molto molto rigida da un punto di vista religioso. Ha un fratello che si chiama Don Filippo, che è un prete. Mi dicono che a Pontassieve, quando c'è stato un convegno, anche il fratello di Matteo Renzi, Samuele Renzi, che è un neo catecumenale, sì, insomma, sono quelli che vogliono riportare alla fede cattolica quelle che l'hanno abbandonata. Fanno un sacco abbia anche rimproverato lo stesso Matteo Renzi sulla legge contro l'omofobia, su un'ipotesi di un'unicità. Cioè, tu dici che Agnese Renzi è il vero ostacolo al fatto che Renzi dica una parola definitiva su questa roba qua? Sì, secondo me sì. Cioè, l'influenza della famiglia c'è comunque, anche per quello che riguarda i politici. Non è che i politici vivono avulsi rispetto a... ma stiamo parlando della tua sosia, eh? Stiamo parlando di quella sì, che... Sì, ma c'è, guarda, mi mettono le... Ovviamente Agnese Renzi è molto più bella di me, molto più femminile. Chi l'ha detto? Vabbè, lo dico io giusto per... giusto così, per... Però devo dire che mi somiglia prima che mi operassi al naso e prima che mi alliscessi un po' più di capelli, quando ero più riccia. Anche al naso, sembrava. Sì. Quindi... non lo sapevo. Non lo sapevo. Devo sapere tutti gli interventi che fa Vladimir. C'è qualche somiglianza o no? Io non ho capito. C'è qualche somiglianza da te? Guarda, effettivamente devo dire che a volte mi mandano delle foto, anche un po' per ridere, in cui mettono in confronto la foto mia di quando ero parlamentare e quella di Agnese Renzi. Effettivamente un po' ci somigliamo, questo è vero. Però no, lei ha con Obama ed era quando Agnese Renzi. Lei ha un bel di dietro, però, lei ha un bel di dietro. Adesso io non lo so. Io ci avrò un bel davanti, che ognuno c'ha quello che senti, ma hanno chiesto una cosa, cioè, nessuno gliel'aveva mai chiesto direttamente. È successo invece a Gay Village. Qualcuno gli ha chiesto: ma tu sei lesbica la Pasquale? Ma secondo te è lesbica la Pasquale o no? O comunque le piacciono le donne, secondo te? Sì, secondo me. Guarda, le hanno fatto una domanda diretta a lei, che credo che sia la persona più... Vabbè, ma tu che conosci queste cose, perché sei a voile a vapeur. Di parlare. Lei ha detto che non è lesbica e che è innamorata di Silvio Berlusconi, e ha detto anche un'altra cosa importante, che se dovesse diventare lesbica vorrebbe vivere da lesbica. Con i diritti. Sì, certo, e questo va bene. Ma... guarda che lei è brava a parlare. Ma lo so, ma... io una passionaria così sui diritti non la sentivo da parecchio tempo, Cioè, meglio lei di molto. A me non mi prendono per il culo, la gente non mi... io le persone le guardo negli occhi. Io sono stata con lei mezz'ora in camerino dopo averci parlato per tanto tempo di telefono, e io sono sicura che lei lo fa perché ci crede in questa cosa, e credo che abbia ritirato fuori quel Berlusconi un po' anche più libertario, sì, che ha dovuto a volte fare, secondo me, anche delle dichiarazioni per non... Però adesso è facile, perché fuori da tutto è facile, prima quando eri al comando, alla chiesa, eccetera. È assolutamente così. Poi a te che te frega, se ti vengono dalla tua parte va bene, non è che uno fa anche, i calcoli. Anche perché, scusatemi, ma qual è l'altro politico di riferimento della destra con la quale dovrei parlare? Con Alfano, Alfano dice la peggio cosa. La Meloni, cioè con chi devo parlare? Cioè Berlusconi comunque rimane un punto di riferimento a chi piace o chi non piace del maggiore partito del centrodestra italiano. Ma piaceva alle lesbiche lì al Gay Village, la Pascale? Sì, credo di sì. Piaceva molto alle lesbiche, sì, sì, molto, sì, sì. Beh, ma è normale. Ma guarda, che secondo me qualche cosa, però questo non si può dire. Perché, ma, beh, fosse... come tu sei anche piaciuto a molte gay, molte trans quando ma sei. Certo, fosse bisex. Guarda, fosse bisex. Dovete cominciare a preoccuparvi. Guarda, cominciatevi a preoccupare quando i gay non vi fanno più complimenti. Questo è vero. Ma secondo te dentro Forza Italia ci sono omosessuali, sì? Ma certo che vabbè, Alessandro Cecchi Paone è quello. Vabbè, sì, però quello sì, è noto. Ma diciamo, posso dire anche una cosa? Quelli che hanno detto un autogol, ma chi? Per chi autogol? Ma sì, guarda, ci sono questi intellettuali del cazzo, del sì, cavolo, sì, che veramente mi fanno veramente ribrezzo. Che dicono, tipo, che fai un nome? Fai un nome. Dico, ma no, insomma, autogol, cose, ho letto cose, insomma, un po'. Ma quale autogol, ragazzi? Lo dico io, è stata una cosa rivoluzionaria. Ti devo salutare. Ciao, Vladi. Ciao. Visto che la Bianco Fiore è ossessionata dalle trans col gingillo, io faccio un appello: si trovi qualcuno che se la trastulli, che se la ripassi un attimo, che le tolga i calcinacci dalle mutande. Ha bisogno di farsi una bella notte di sesso. Vogliamo dire una cosa definitiva? Ho letto che la Lega ha scelto, in particolare il segretario Salvini, ha scelto un nero, che io chiamo tranquillamente negro. Lo chiamo così, come dico i gay. L'ho sentito oggi, uguale. Mio amico Tony Iobi. Allora, questo tizio che domani inviterai alla zanzara, questo si chiama tizio, Tony, vabbè, no, domani... ma questo tizio, ma scusami, ma si chiama Riccardo da Roma, quella capra di Riccardo, dice Riccardo da Roma, non è che lo storpi il nome, no? No, io non ho detto, questo io non so come si chiama. Si questo... chiama Tony Iobi. Benissimo, domani inviterai alla zanzara. Ripeti un attimo, Tony Iobi. Bravo. Tony Iobi, 59 anni, nigeriano, responsabile dell'immigrazione. Da tempo militante della Lega, domani lo inviterei alla zanzara, questo tizio. Allora, questo responsabile politica e immigrazione. Sì, perché esiti su questa cosa dell'invito alla zanzara? No, va bene, sì, ah, sì, no, sì, per capire. Bene. Allora, questo Iobi, ma perché questo? Ma io non capisco. Lo dico di tutti, anche la Lega ha scelto la sua figurina, ha scelto la sua, come dire, il suo. Non c'è motivo, se no, no, non è che c'è motivo per mettere un nero barra negro come responsabile immigrazione del partito. È, per, come dire, è un po' uno specchietto per la lodole, una bandierina messa là, come la Chienga era una bandierina del PD per l'immigrazione. La stessa cosa fa l'amico Salvini, io lo voglio dire apertamente perché non abbiamo infingimenti qui, non è che ci teniamo dentro le cose, le diciamo così come le pensiamo. Allora, questo Iobi, Tony Iobi, come dici tu, amico tuo, signore che io non conoscevo, per mia colpa, non conoscevo, da tempo militante della Lega. Ma è stato messo lì semplicemente perché negro. Oh, diciamola tutta, è stato messo lì perché negro. Ma va bene, va benissimo, però che sia chiaro, è stato messo lì perché nero. E dai, su. Certo, era difficile darla a buon anno questa delega, certo. Numero uno, ragazzi, al di là di queste cose qua, il vero numero uno è il Viperetta. Grande show ieri sera a Tiki Taka, grandissimo show ieri sera a Tiki Taka. Viperetta show. Ah, buonasera al presidente della Samp. Buonasera Massimo Ferrero, come va? Buonasera a voi, vi vedo che siete tutti belli preparati, Sì, c'è cioè, chi è più avete bello. Studiato, eh? C'è cioè, chi è più bello e chi è meno bello. Cioè, ordine no, e la satta vicini, insomma, c'è un certo mismatch, come direbbero gli americani. Eccolo qua. È più bello so io perché so bullo e bello e non truccato. Non truccato. Uno stadio, una tifoseria e gente che vedono solo il derby, per cui sono molto felice avermi regalato e aver regalato a questa gente meravigliosa questo 1-0 che l'avevo detto. Io ho detto a Preziosi, 85 ti faccio un gol, portati in ambulanza perché ti sentirai male. Ecco. Sono un uomo last minute, questo è fantastico, un uomo last minute. Senti. I festeggiamenti sotto la gradinata oggi alla Zanzara hanno fatto uno scherzo con la finta voce del presidente Ferrero che chiama Preziosi. Insomma, se ce l'ha con me è andata via l'audio, non ho capito niente. No, che vedi che ce l'aveva con lei. Non è vero. Volevo che ci raccontasse quel momento lì sotto la gradinata. Ma sai, io non è che io non ho il dono degli artisti che stanno lì. Io sono un uomo distintivo, sono un uomo di momenti, sono un last minute, faccio quello che penso. Sono un uomo, in realtà volevo dire, sono uno che reagisce distinto, sono un uomo ma distintivo. Ma tutti i giornalisti, artisti lui mette tutti dentro, giornalisti, attori, uomini di fatica, eccetera, eccetera. Uomo last minute, cioè uno che in realtà voleva dire sono uno che reagisce distinto alle cose, no? All'ultimo, certo. Che decide le cose all'ultimo secondo. Un uomo last minute è stupendo. Un uomo last minute. Ma se stiamo a pensare come pensate tutti voi all'anni di Chicca e Nina, ma di che stiamo a parlare? Andiamo avanti. Chicca e Nina, no, oggi è lunedì. E quando ero bambino nei bar li semenavano i laziali e i romanisti, mai nessuno accettava la sconfitta. Avete perso e perdete pure il prossimo. Questa è la prima parte, intanto TG3. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi sulla riforma del lavoro, la gente sta con me, non con i sindacati, dove erano quando i diritti sono stati cancellati, Camusso attorno a noi cresce il consenso. I dati dell'Istat sul PIL scenderà anche nel terzo trimestre, si spera nel calo dell'euro, emergenza lavoro per i giovani, ad agosto record di disoccupati. Il CSM nomina Legnini vicepresidente ma scoppia il caso Bene, la candidata laica del PD dichiarata ineleggibile, consulta verso un'altra fumata nera, via libera di Camera e Senato ai tetti per gli stipendi dei dipendenti, riforma il regime nel 2018, in 4 anni risparmi per 97 milioni di euro. A Hong Kong i manifestanti non solo restano in piazza ma rilanciano e minacciano di occupare gli uffici del governo e Londra convoca l'ambasciatore cinese. Tempi di attesa troppo lunghi, ticket troppo cari e gli italiani abbandonano la sanità pubblica. Vicenza oltre 3.000 candidati per un posto da infermiere. Fa discutere il patteggiamento per 4 clienti delle minorenni che si prostituivano ai Parioli, 1 anno con la condizionale e in tanti chiedono di cambiare la legge. Conto, no? In un altro momento, se ci fosse stato un sindaco di centrodestra, che reagisce in questo modo, condannato a 1 anno e tot, giusto, ingiusto, un processo complicato, i tabulati, i genchi, tutto quello che vi pare. Si può discutere di ogni processo, solo che una parte della politica e dell'editoria e dell'informazione ci aveva comunicato un'altra cosa, cioè che dei processi e delle sentenze non si discute. Anzi, non solo non si discute dei processi e delle sentenze, ma le sentenze, addirittura i rinvii a giudizio venivano utilizzati come pietre, venivano utilizzati come punti di riferimento fondamentali, come Beh. Paletti, ma addirittura gli avvisi di garanzia, ma io voglio dire i rinvii a giudizio. Figuriamoci una condanna in primo grado. Allora, ogni giorno gli amici bravissimi del Fatto Quotidiano, ogni giorno, lo ha detto Travaglio per carità, dovrebbero scrivere a caratteri cubitali sopra la testata: De Magistris si deve dimettere. apriamo parentesi, secondo me non si deve dimettere, ma è la logica, la politica, è la, come dire, l'abitudine. Beh, a parte che glielo impone la legge. Ma la, sì, diciamo. Ma però lascia stare, lascia stare la legge, chi se ne frega la legge, dai, traffico, Valentino, Francesca, sì, Massimo, sì, ma da Roma. Non sto parlando della legge, sto parlando della cultura politica, ma che c'è, certo, dietro, non la legge, certo. Non me ne frega un cazzo a me della legge, che è pure sbagliata peraltro. Vabbè, questo è un altro discorso, ma questo si può discutere. Ad oggi c'è una legge, il signor De Magistris deve, ma non come, è detto, c'è un'interpretazione. Come un Berlusconi, non c'è nessuna interpretazione. Per Berlusconi non ci fu nessuna interpretazione, ma adesso è la condanna. No, anche per un sindaco di, no, anche del per centrodestra in Calabria, non per so un dove bubù sospetto. Qualunque, per un bubù qualunque. E beh, amico mio, ti devi dimettere. Dimettiti, De Magistris, a casa, dimissioni. Mi chiedono le, poi sa, mi chiedono le dimissioni, ma non ti chiede nessuno le dimissioni. Ti devi dimettere perché, oltre che la legge, è la tua cultura politica che ha abituato così. Mi stanno chiedendo da più parti, tutte le forze politiche a me avversarie, che non, come dire, accettano che stiamo cambiando Napoli con le mani pulite, di dimettermi. E quindi la dimissione è una cosa diversa, uno si dimette se ha rubato, qua mi fanno pagare semplicemente perché ho fatto il mio dovere da magistrato indagato nei confronti dei poteri criminali e non sono solo quelli politici. Ti rendi conto della follia, no? Cioè, Berlusconi queste cose non le ha mai dette, eppure nessuno si indigna a sinistra. Vabbè, Francesco, provincia di Bari, dai, forza. Ciao, buonasera. Non si sente niente. Valentino, Firenze, vai. Pronto? Dimmi, Valentino, vai. Buonasera. Senta, io la stimo benissimo per la trasmissione, però delle volte lei dice delle cavolate che è una... Ah, quello idea. Sicuro. Perché in questo caso? Ti spiego, ti rubo due parole. Senti, io sono cittadino albanese. Sì. E quello che lei ha detto prima... Per quanto riguarda il telefono di signor Vittorio Sgarbi, che non ce ne fosse proprio niente, non, cioè, è proprio... Ma dai, è una battuta, perché, su, perché, dai! Lo so, ma io posso dire la mia? Sì, sì. Posso sì. dire la mia? E si sa che nei aree di servizio in tutta Italia non esistano certe bande degli albanesi di turno. Ce sono di tutti i tipi. Napoletani. Senti, ma ho capito, Valentino, io non volevo dire che gli albanesi hanno rubato il telefono di Sgarbi. Però dai, su. Cioè, uno dice, ci sono delle persone che hanno rubato il telefono di Vittorio Sgarbi, che, ripeto, non ce ne frega proprio di niente, però quando uno fa dei nomi per dire albanese che... Io come albanese... Vabbè, ho capito benissimo, se qualcuno si è offeso, ma non si deve offendere nessuno, non si deve offendere nessuno. Mimmo da Brindisi, non bisogna rimanerci male perché non ho offeso nessuno, era una battuta così, magari l'hanno già rivenduta a qualche albanese, non ha nemmeno detto che il telefono di Sgarbi l'ha rubato un albanese. Mimmo, Brindisi, dai. Ciao Giuseppe. No, ma ragazzi, non mi fate però arrivare le palle fino al coso, parlate con la voce alta, su, Mimmo, forza. Allora, no, volevo soltanto fare una... Pronto, Giuseppe, pronto, Giuseppe, pronto. Vabbè, magari alza un la po' voce, giù di morale, su. Poverino. Allora, sto gridando, mi senti? Dai, non devi gridare, devi parlare forte, deciso, vai. Allora, solo una considerazione. Visto la vicinanza della Pascale al mondo lesbo gay, sì, ricordo sì. che quando ci fu lo scandalo delle cene, feste, eccetera, una delle oggettine dice di aver visto la Pascale in atteggiamenti lesbo, un rapporto... Vabbè, ma sì, c'è anche quello che dice la Bonef, eccetera, eccetera. Allora? Eccetera. Beh, visto la vicinanza della Pascale al mondo lesbo... Ah, hai fatto questo allora collegamento, hai fatto questo collegamento. Ma che cosa strana, che collegamento originale che hai fatto. Ma vattene, va. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Get your motor running. Head out on the highway. Oh, attenzione, attenzione. Looking for adventure. Pare che ci siano notizie sul telefono di Sgarbi, sul telefono di Sgarbi perso. Aspetta, intanto risentiamo Sgarbi, perché per chi non lo sapesse, Sgarbi ha perso il cellulare, ha perso un iPhone con tutti i dati, ma soprattutto con gli indirizzi e i numeri di telefono di fighe, così dice lui, non è che lo dico io. Non sapete un cazzo, continuate a parlare l'iPhone, ma ti pare che è un argomento, invece di parlare di Raffaello parli dell'iPhone. Io a proposito devo dire una cosa, l'altra notte a San Martino, Parma Ovest, ho appoggiato il mio iPhone 4 pieno di notizie meravigliose, con una quantità di figa senza fine, me l'hanno rubato. Vorrei che quello lo restituisse, perché non è che quello si può utilizzare il bene mio. Esatto. Perché non è comunque una transitabile. Banca dati. Sono antiprostitute, ragazze tutte nobilissime, dolcissime. Senti, è una banca dati. È una banca dati, questi stronzi corduti. Fabrizio da Roma, che è successo? Allora, buonasera, mi trovavo anche io nei pressi dell'autogrill, non nei pressi, l'autogrill. Ma dai, non è possibile, tu ti trovavi all'autogrill quando c'era Sgarbi? Io faccio l'autista, viaggio spesso e sa, Sgarbi non passa inosservato, no? Anche sì, perché lo conosco. Quindi, allora? Allora poi ho visto istintivamente allontanarsi di corsa una persona, uscire dall'autogrill, diciamo, dal bar. Sì, sì. Montare in macchina all'improvviso e andare. E ho sentito poi, io sono rientrato, ho sentito Sgarbi che pregava. Ma che macchina era? Che macchina era? Era una Ford Focus. Una Ford Focus? La tua? No, io eri no. Tu? No, ma che io, sì. Figuriamoci, se una, a parte che non ho Ford non Focus. Non credo che sia la Ford Focus. Era una Ford. Vabbè, comunque hai visto uno che sgattagliola via e entrava. Ma era bianco? Era padano, era bianco, com'era? Che c'entra era... padano? No, non lo so, chiedo. Allora, io ho telefonato bianco per parlare con te, Stefano. Stefano un cazzo, chi? Sì, Stefano, chi? Scusa Stefano, vabbè scusami, mi sono... No, perché? Giuseppe. Per parlare con te, Crucia. Sì, Giuseppe, sì. Scusami, un lapis. Allora? Non con quel cretino, non con quel perché cretino. Mi saluti a casa, eh? Che ha fatto? Mi saluti a casa la sua famiglia, che ha fatto, stia Parenzo? Bene. Pronto, sì, Parenzo, che ha fatto, fatto? Sì, spero che stia bene la sua famiglia. Già che esiste, già. No, io non ho famiglia, caro testa di cazzo. Beh, per forza. Non ho famiglia. Non ce la può avere uno con un cervello come quello, come fa avere la famiglia? Infatti, è un poveretto, è solo. Testa di cazzo anche io come te, non posso. Mi saluti tutti, Parenzo, buonasera, molto lieto. Ma non ho capito, perché gli dai della testa di cazzo? Chiama testa di cazzo, perché gli dai della testa di cazzo a Parenzo, Fabrizio? Non ho capito. Dai, uno. Ma uno che parla come lui, uno che la pensa come lui, che cos'è? È una testa di cazzo, dai. Vabbè, ho capito, Parenzo, molto lieto, buonasera. Io sono sempre Parenzo, lei mi pare che si chiami testa di cazzo, testa di cognome, giusto? Sì, parliamo tra testa di cazzo, dai. Quindi il suo nome è testa, non ho capito, qual è il nome e qual è il cognome? Testa è il nome? Testa è il nome, cazzo è il cognome. Ah, ecco, buonasera, Parenzo, molto lieto, piacere, Parenzo, molto lieto. Buonasera, signora testa di cazzo, buonasera, sta bene? La Crucia mi sta a far ammazzare da ridere stasera, guarda. Vabbè, grazie. Allora? Allora che? Niente, volevo dire. Volevi dare solo questa informazione qua. Allora, una persona. Alta circa 1,80 m, con 1,80 m. Una Ford Focus scura. Sì. Che scappava via. Sì. Però non hai visto che questa persona rubava il cellulare, no, ovviamente. Beh, sai che c'è? C'erano 4 persone a quell'ora all'autogrill. Quando vedi una persona che si allontana all'improvviso, che lascia il bicchiere e va, diciamo, ma tipo dai, a Tenente Colombo, ma di che parli? Su, a Tenente Colombo, a testa, a signor testa, a Tenente Colombo, a Ispettore Derrick, ma dai, su, ma Ispettore Derrick ha chiamato l'Ispettore Derrick, ha chiamato, dai. A Tenente Colombo, a Derrick, a Derrick, a Derrick dei poveri. Mamma mia, anch'io, guarda, non vedo l'ora di vederti, Ispettore Derrick. Perché dai, adesso perché non ho capito, Fabrizio, non ho capito. Come vai a Mignotte? Per forza, certo, quello è il suo mestiere. Come vai a Mignotte, scusa? Lascia stare, ovvio. Ma dove ti trovi adesso, Fabrizio? Sei qualificato da solo, dai, Fabrizio. Vabbè, ciao. Ha chiuso, è andato al suo lavoro, alla sua occupazione. Incazzare molto questa frase della Barbara D'Urso venerdì da noi, sui soldi. I soldi fanno sempre incazzare, perché chi guadagna o chi dice di non guadagnare fa sempre venire una rabbia pazzesca. Se tu dici guadagni 1 milione di euro sei un ladro, un porco, un malvivente. L'Italia intera ti odia perché guadagni, perché c'è un'invidia sociale pazzesca, no? Se tu guadagni dei soldi, la gente comunque in default ti odia, soprattutto quelli che guadagnano di meno, ma non solo. Se tu invece, come ha detto la D'Urso, forse esagerando, dici il contrario, peggio ancora, perché ti dicono no, è falso, figuriamoci, primo. Secondo, dicono come fa a piangere miseria. Non è che ha pianto miseria, Barbarella nostra, no. Comunque, sentiamo. Tu sei ricchissima, diciamo la verità. Sì, tu, senz'altro. Tu sei ricchissima. Guarda, quanto guadagni? Dillo, ma pochissimo, credimi, ma esattamente almeno 10 volte meno di quello che immaginate. Mezzo milione lo guadagni tutto? No, neanche, no. Oltretutto pago tutto il mio fantastico 60-65% di tasse, tutte. Effettivamente quel pochissimo. No, ma era riferito forse sentito, no? Cioè all'immagine, no, che uno può avere di chi fa. No, sì, però ha detto io guadagno pochissimo. No, come dire, voi potete immaginare una cifra perché sono tutti i giorni, 7 giorni su 7 in televisione. Ha detto così, però. Ha detto guadagno pochissimo, 10 volte meno di quello che voi potete immaginare. Certo. Ho capito. Poi ha detto meno di 500.000. No, vabbè, ho capito, ragazzi. C'è una frase esagerata, quando dici guadagno pochissimo, è chiaro che è un discorso più generale. Pochissimo rispetto a che? Rispetto a quello che possiamo immaginare, in questo senso, dici? Sì, esatto. Anche rispetto al tipo alle quantità di lavoro che fa del 7 giorni su 7. Francesco da Milano, vabbè, questo è un altro discorso. Francesco da Milano. Anche a quello, eh? Francesco da Milano, dai. Pronto? Ah, niente, volevo solo dire che secondo me Sgarbi il telefono non l'ha perso, né gliel'hanno fregato, ma l'ha nascosto perché non lo sa usare. Beh, non lo so, perché? Perché? È uno che parla di tutto, sa tutto, sì. È il tipico esempio dello sbruffone che poi pensa che dietro il computer ci sia della magia e che il computer ce l'ha con lui personalmente. Ma perché dovrebbe pensare questo? Scusi, ma perché secondo me non ha la mentalità, diciamo, fredda di colui che analizza il computer come un oggetto. Ma perché no? Ma lo considera solamente come un oggetto? Ma chi l'ha detta a lei? No, guarda, io ho conosciuto parecchi artisti. Tutti hanno quel pensiero, si impazzano di fronte al computer perché non gli dà le risposte che loro si aspettano. Vabbè. Semplicemente perché battono i tasti male. Può darsi che non abbia la memoria dei numeri che si trasferisce da un telefono all'altro. Vabbè, ciao Nicola da Pescara. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Questa sera non parlo di De Benedetti, così non ti incazzi. Allora, ciclicamente, ogni 3 mesi, in tutti i talk show, anche da voi in radio, si riparla di mignotte, si riparla di prostituzione. Sì. Allora, dato per scontato che l'Italia è un paese, da sempre, di puttane, puttanieri e falsi moralisti, ma che cazzo dobbiamo liberalizzare? Passami questo termine. In che senso? Allora, te lo dico. Che è tutto già liberalizzato. Come si svolge la prostituzione in Italia? Non guardiamo le 4 gatte che sono per strada, sono 4 gatte dell'est, proprio 4. Allora, il grosso della prostituzione viene svolto dentro degli appartamenti che le lucciole affittano a dei signori e svolgono tutto lì, attraverso annunci su internet, prima sui quotidiani. Ma ci sono tanti tipi di prostituzione in Italia, non è che c'è solo questa qua degli annunci su... Ma guarda, il numero maggiore delle prostitute che esercita dentro gli appartamenti. Te lo dico perché ho lavorato per i quotidiani, per i network via etere e degli annunci. Allora, è una cosa conclamata. Cosa dobbiamo liberalizzare? L'unico problema che dobbiamo... No, dobbiamo liberalizzare, bisogna che... certo, quello tu fiscale. Sei d'accordo con me? Ma io voglio tutto. Chi può esercitare in proprio deve fare la dichiarazione dei redditi. I bordelli, i bar con le puttane, tutto, voglio tutto legalizzato, con i soldi che vanno allo Stato. Bravissimo, io sono d'accordissimo. E con allora, è possibile appunto che i nostri politici ogni 3 mesi si sveglia quello, non liberalizziamo, una questione morale su una pratica che avviene da secoli, ma clamorosamente, con numeri enormi, perché questi coglioni allora non sanno neanche quante mignotte ci sono. Allora volevo fare un applauso ad un tuo grande amico che è Antonio Razzi, che l'altra sera alla gabbia, in mezzo al rincoglionito Sgarbi, che ormai è rincoglionito, sapeva che dire, in mezzo ad altri imbecilli e 2 giornalisti, era stato lucidissimo. Attiviamo un mercato che possa dare anche nell'indotto un lavoro ad altre persone, creiamo i bordelli. Ha ragione, ma perché non lo dite? Antonio Razzi, lo prendo per il culo tutti, tranne te, e questo te lo devo riconoscere. Non è una persona di cultura, però non è neanche un cretino, parla ovviamente in maniera ruspante. Lo riconosci questo, sei d'accordo? No, ma certo, a me lo dici, come sfondi la porta aperta. Viva Antonio Razzi, abbasso i falsi moralisti, i politici italiani da 2 soldi, quei vecchi tromboni, Figaroli e Pipparoli che guardano film porno e non hanno il coraggio di andare a puttane. Ciao, questo Nicola, che volevo dire. Ciao, ciao. Occhio che stiamo degenerando, Altre botte di Renzi sui sindacati, eh? Intervista a Ballarò questa sera. Renzi ha detto Dove erano i sindacati quando i giovani perdevano lavoro, eccetera, eccetera? D'Alema più parla, più guadagno punti. Le parole dalla direzione del PD di ieri, tutti quelli che alla fine sono stati sconfitti da Renzi, inevitabilmente sconfitti da Renzi, anche se poi bisogna vedere in Parlamento i franchi tiratori, eccetera, eccetera. Meno slogan, meno spot. Questo paese di slogan e annunci ha vissuto per tanto tempo. Oggi c'è un disegno, può piacere o meno. Per Luigi, a cui esprimo tutta la mia solidarietà se qualcuno ha utilizzato il metodo boffo, io sinceramente credo al massimo di utilizzare ogni tanto un metodo buffo discutibile. Stiglitz, il vecchio rottame della sinistra, diciamo però ha avuto quel premio Nobel del quale i nostri giovani consiglieri finora non hanno avuto la possibilità di essere insigniti, diciamo. C'entra il metodo boffo evocato da Bersani? Che c'entra, sì, il metodo quello, boffo? C'è il metodo boffo nei confronti di chi? C'è da parte di chi il metodo boffo? Che c'è mezza stampa italiana contro Renzi? Bah. Massimiliano da Verona, dai. Sì, pronto? Massimiliano, ciao, vai. Tani. Vai. Ciao, dimmi. Tani, dimmi. Ciao, Parenzo. Ma la mia era una provocazione moderata, ovviamente. Era per una soluzione contro il terrorismo islamico, svuotamento delle carceri e immigrazione. Sì. E proporrei di prelevare ogni giorno dalle carceri italiane qualche arabo condannato per reati gravi, sì, mettergli il camice arancione, fare un filmattino e giustiziarlo in diretta. Eccolo, eccolo qua, eccolo. Per forza, doveva arrivare, 19:48. Noi dobbiamo fare che arrivare? Cosa? Cioè, per rispondere a quelli che decapitano, eccolo, dovremmo qua, prendere uno condannato non per reati. Non bombardare più, non andare a fare i bombardamenti. Di mezzo i civili. Preleviamo dalle carceri che ci sono in Italia dei criminali per reati gravi di religione islamica, oppure che siano stati, che siano arabi, e iniziamo a fare un po' la mano pesante anche. Beh, come diceva anche Buonanno, no? Cioè, rispondere colpo su colpo, occhio per occhio, dente per dente. Questo. Certo. Cioè, se certo, dice, prendere certo, questo, un islamico certo, in carcere adesso, adesso se andiamo avanti così ci smenano solo quelli che vengono nei barconi e affondano e quelli che vivono nei loro paesi e vengono bombardati. Lei è una persona non incivile ma proprio fuori dall'umanità, perché non è umano quello che lei dice. Vengono Vabbè, umano quello che sta succedendo adesso. Allora, cioè, lei tanto sta mettendo insieme uno, i migranti che muoiono nel mare, quelli che purtroppo non riescono a essere salvati da Mare che Nostro. Che c'entra primo. Questo no, l'ha detto questo sobrio intellettuale che ha telefonato poco fa. Primo. Secondo, ha detto questa stupidaggine megagalattica di fare delle decapitazioni prendendo dei detenuti di religione islamica. No, cosa ha detto? Sentiamo. Ha detto di ammazzarli, prenderli da carcere e ammazzarli. Ah, ecco. Il genio, ma questo è un cretino. Ma io non so, ma vi danno. Ci vorrebbe un patentino per telefonare nelle trasmissioni. Lei è proprio un cretino. Vabbè, ciao Massimiliano. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Un cretino. Io vedo da un po' di tempo a questa parte in tribuna insieme a ma Massimo perché Ferrero. Perché incazzare sempre? Perché allora, insieme al signor Massimo Ferrero, sì, vedo sempre una coppia. Ottimo. Formata da Ricky, sì, Tognazzi e dalla moglie che si chiama Simona Izzo. Io vorrei, ma come mai sempre lì in tribuna con Ferrero? Non è che sono tifosi della Sampdoria, anzi credo che no, anche. No, non so, amano il calcio evidentemente, ma amano. No, ma sono molto amici di Ferrero, questa è la certo, realtà. Simona bellissimo. Izzo, buonasera. Come state? Bene, bene, tu come stai? Beh, benvenuta, mi cara. Mi sento molto eccitati con questo Ferrero. Beh, Ferrero, scusa, come fa? Eccitati, adesso non esageriamo. Perché beh, sì, no, no, però giusto, è vero, siamo noi eccitatissimi. E indubitabilmente, senza dubbio, il numero uno della comunicazione in questo momento. Perché è così spontaneo, così, come last dire... Last minute, ha detto. Io sono un uomo last minute. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire che decide all'ultimo momento, esatto, quello che deve dire. E invece di istintivo ha detto distintivo. Sono, sì, un uomo distintivo. È carina, no? Beh, ma senti, allora, io sono una sua tifosa da molti anni. Sì. Perché è uno degli uomini che mi ha fatto più ridere nella mia vita. Addirittura? Ti garantisco, cioè intanto, in privato fa ridere, è esattamente come se vuoi un pochino meno excited, meno eccitato, però in privato è così, cioè non è che quando vede una telecamera lui, diciamo così, cambia o la sente addosso, vive così la sua vita, è proprio un uomo, diciamo, io penso che sia un maniacale, cioè anche quello che è riuscito a fare nella vita, cioè un po' di, però non va mai in depressione, non l'ho mai visto triste, Massimo, è sempre un uomo che ha un sistema nervoso, diciamo, che l'ha aiutato a fare tantissime cose, dal cinema alla... Ma perché c'ha sempre questi occhi spiritati? Sembra sempre un po' sopra le righe. Sopra le righe. È un uomo di spirito, no, a parte tutto. No, perché vive intensamente. Sembra sovraeccitato continuamente. Ma va bene, ma perché è la sua energia, lui ha un'energia che non riesce a convogliare, se vuoi, nella vita, non ce la fa, ce n'ha talmente tante, è superante. Che come Renzi, poi... sostanzialmente, anche Renzi. È vero. Che Renzi è un pochino più preciso nelle sue dichiarazioni. Sì, è vero, però c'è qualcosa. Però sì, è un esternatore. Sì. Parenzo, cioè, ne hai detta una giusta. Sì, ha delle cose molto simili a Renzi, cioè la velocità, è continuamente attivo. Però, insomma, diciamo che Renzi è un pochino più forbito. Beh, sì. Poi ieri mi è piaciuto molto Massimo, però insomma ho sentito un po' il romanesco, un pochino, perché lui è proprio un romano di Roma. Ma perché ha preso sta Sampdoria, secondo te, che vi ha deportato a Genova? Perché lui vuole giocare, allora intanto, perché lui gioca nel senso migliore della parola, è un... Cioè per lui la Sampdoria è un giocattolo, è un modo per divertirsi. Perché giocattolo mi freghi dicendo giocattolo, è un gioco, un grande gioco. È un grande gioco, vabbè, appunto. Un grande gioco che lui, da uomo qual è, che poi c'ha un'età, mica è un bambino, però mi sembra che la sua energia sia assolutamente cresciuta. Poi guarda, ha avuto un figlio da pochissimo tempo. Sì, ha avuto un bambino con Manuela, che peraltro è una donna che gli ho presentato io. Sì. E gliel'ho presentata involontariamente, se vuoi, nel senso che eravamo ad un matrimonio, eravamo al matrimonio di Luca Argentario e Miriam Catania, cioè mia nipote, sì, e lui è arrivato da solo e tra 500 persone ha detto: ma chi è quella? Io ho detto: non lo so, è una bella donna, ma ha voglio, ma non è che siamo al supermercato. Però c'è riuscito. No, ma sei riuscito in 25 secondi? No, lei ha resistito molto. Una signora toscana, colta, Che si è innamorata di uno apparentemente rozzo come Ferrero. Ma vedi, però... C'è del rozzo, c'è del rozzo un po', ma va bene, a me piace. C'è una verità che probabilmente è una verità da marciapiede, di un uomo che è cresciuto in mezzo alla strada, di un ragazzino che aveva una grande responsabilità, fin da piccolo lui era il capofamiglia, hai capito? Ha cominciato a fare il cinema, perché prima ha fatto la comparsa, si è infilato sui set, poi a un certo punto ha cominciato a guidare le macchine, a fare l'autista, poi è arrivato a fare accompagnava le star, poi a un certo punto si è infilato ancora di più e diventato direttore di produzione. Speriamo che non finisca male questa storia della Sampdoria, altrimenti lei, tifosi, non perdona, non è che possa finire ma male. Che ne so, il calcio, se bisogna metterci i soldi, il calcio bisogna metterci i quattrini, cioè bisogna... Va bene, però lui ce l'ha. O comunque muove molto. Massimo muove tantissimo denaro, è un uomo che sa gestire la sua vita. Guarda, io lo conosco da 30 anni, ogni volta che parlavo di lui, ho fatto diversi film con lui, peraltro ho fatto girare una delle sue più belle opere, che è Il Papa Buono. E adesso pure vi sta producendo qualcosa, no? Adesso dovrebbe produrre, vediamo come va, però dovrebbe fare il mio film. Che allora, io ti devo dire una cosa, che quando viene su un set, Massimo ha la stessa energia di quando sta sul campo. Vorrebbe fare l'attore come un tempo. tempo vuole come fare faceva... l'attore, vuole fare il regista, vuole salire sul dolly e che dice, oh, ma che, dice oh, ma che stai a fare, sta scena fa schifo, dice. Ma gli farai fare la comparsa? No, ma guarda che lui è uno straordinario attore, guarda che quella roba lì che ha fatto su Ultra, sì, è perché sì, è un istintivo, ma è un attore, no, ma era fantastica quella scena, è un istrione stupendo. Subito da Simona Izzo, che è qui con noi in collegamento da Roma, David Parenzo pure a Roma, perché voglio farvi ascoltare quello che dice Buonanno, uno della Lega, no, con cui non la rovinare la giornata. No, quella con uno con cui l'ho visto litigare qualche settimana fa, qualche mese fa. Sì, ma dobbiamo ricordare che questo signore è pagato da noi 12.000 euro al mese per fare il voglio pagare, quindi mi devono restituire dai, i soldi. Su, smettila. Sì, questo signore è pagato da noi, in Europa, ma tu ti rendi conto, i deputati, quelli tedeschi, i deputati francesi che lo vedono, anche gli inglesi. Oh, it's Buonanno. What is Buonanno? Ma qual è il problema? Ognuno fa politica come vuole. Ma quello cioè, il cibo lo paghiamo noi, è un biglietto del circo che non volevo pagare. Io volevo una persona seria da mandare lì, non uno che fa lo show. Ma tu vuoi tutti i professori, dai. Ma su, non voglio professori, ma quello mi rappresenta. Vabbè, ma esprime le sue idee, ha preso i voti. Ma che esprime? Però un pagliaccio del circo equestre che fa soldi, anche poco senti ridere qua, ormai. Soldi ai pensionati? No, agli immigrati. Ma se il Partito Democratico fa delle norme dove vuole dare i 30 euro all'immigrato clandestino e non li dai ai pensionati, devono rovistare nei cassonetti i nostri pensionati, la nostra gente. Questa è la prima cosa. Danno i soldi ai carcerati. L'altra cosa è che con una norma danno 8 euro ai carcerati che stanno nella cella troppo piccola. Cioè noi diamo i soldi a chi è un delinquente e non premiamo la gente per bene. Allora è questa l'opinione di voi. Danno i soldi agli zingari. Danno i soldi agli immigrati, ai carcerati e agli zingari. Stupendo. Visto che noi siamo in un paese anormale, diamo anche i soldi agli zingari, ai rom, gli facciamo anche le casette a posto e la nostra gente deve adesso, stare fuori dai adesso fonti. Restiamo su questa proposta, poi faccio rispondere. Sì, ma stiamo scherzando. Alessia Mosca, però. Quale proposta? Ma di quale proposta? Quando l'ha incontrato in televisione, Simona, che effetto ti ha fatto il signor Buonanno? Ma dai. È una delle persone più maleducate. Certo. E più ignoranti che io abbia incontrato in televisione. Addirittura? Sì. Non nella vita, però in televisione, ti voglio dire. Vabbè, certo. Nel senso che è una persona che doveva fare il comico, ma non avrebbe fatto ridere nessuno. E si è permesso di dirmi, a un certo punto si è zitta lei che è tutta rifatta, ha detto guardi, io indicando, diciamo così, il mio décolleté, che sì, è sì, una delle cose vere che mi rimangono. E allora gli ho detto guardi, lei non mi conosce, non sa chi sono e quindi non credo, no, io non so chi sei, non credo che possa, non ha mai parlato con il mio chirurgo plastico, quindi non penso che ti possa ha dato pure della così. Comunista, che ti ha detto? Poi mi ha detto sì che era una comunista perché stavo parlando del fatto che i pensionati avevano bisogno, parlavamo dell'assistenza dei denti per i denti, sì, sì, non era d'accordo nemmeno su questo. Comunque trovo veramente che sono certe persone dovrebbero veramente o stare zitte, fare una, non è il suo mestiere questo, anche perché perde la testa. Cioè è indegno di stare in un Parlamento europeo secondo te uno così? Assolutamente sì, ma non solo in un Parlamento europeo, in qualsiasi Parlamento, in pubblico direi. In pubblico addirittura. No, ma certo, può stare nei bagni della stazione Termini. State esagerando. Ma ognuno fa politica, esiste il populismo. No, però scusami, la politica è intanto l'arte dell'oratoria. E quindi ma esiste il populismo, da che mondo è mondo? Esiste l'invettiva, esiste anche... Io capisco l'invettiva, ma lui offende le persone, lui ha una ignoranza di base per cui non riesce a parlare di tutto e quando è in difficoltà comincia ad insultare. C'ha degli slogan, uno sloganista che secondo me si prepara la sera come un comico. Però guarda che in un film non è male Buonanno. Per carità di Dio, andrebbe malissimo. Dici. Vabbè, comunque io capisco, ma ti va ancora di seguire Ferrero a vedere partita? Sandoro oppure ti sei fatta due palle così? Guarda, allora io ho seguito sempre Massimo in tutte le sue imprese. E poi è successo che lui ci ha a un certo punto ci ha detto venite a vedere la Sampdoria, io ho detto ma guarda, sai, era la prima partita, per cui io e Ricky eravamo felici, mi sono vestito, io che poi sono romanista da parte di figlio, perché mio figlio si chiama Venditti, milanista da parte di marito, perché sono una donna trasversale, per cui quando vedo la partita con Ricky e io poi sono, in realtà poi il mio cuore diciamo che è a Roma, però adesso sono diventata sampdoriana, sono talmente invasata da questa cosa qua, trascinata da Ferrero diciamola ai tifosi della Sampdoria, sono diventata sampdoriana, diciamo. Sono diventata sampdoriana, ti dico una cosa che però il vero portafortuna di questa squadra, a parte la grandezza e la sapienza e la competenza di un grande allenatore come Mihajlovic, è il figlio di Massimo, che si chiama Rocco, che è stato portato sempre allo stadio, che c'ha un anno, e che lui ha chiamato Rocco prima di tutto perché San Rocco è il santo del cinema, perché è il giorno dei cinematografari, dei giovani. Tu dici che San Rocco Ferrero è il vero talismano della Sampdoria, assolutamente, e Rocco e i suoi fratelli, perché c'ha tanti fratelli, perché Massimo ha avuto diversi figli, però diciamo così, quindi gli ha dato anche un nome cinematografico. Questo bambino, che ha già la sua maglietta con scritto Rocco, è il vero talismano, è il suo ma non è il portafortuna solamente per la Sampdoria, è il portafortuna della vita di Massimo, perché a 60 anni ha avuto un altro figlio e gli ha dato quell'energia che poi non so fa, come gli evade avere un figlio a 60 anni, una cosa tremenda. Beh, perché è stata la gioia della sua vita. A 60 anni non te ne preoccupa, quando ce n'hai 20 ce n'hai 80, quando ce n'hai 20 ce n'hai 80. Mamma è giovane e bella, adesso lo guarderò a lei. No, lo sai perché c'è una cosa che mi ha fatto impazzire di Simona Izzo, ed è questa che ho letto, che non lo sapevo, che vuole unire il popolo delle morbide. Parenzo, questo non lo sapevo. Io c'è un'altra cosa che mi fa impazzire della coppia Rizzo Togliazzi. Popolo delle morbide, uniamoci. Se vuoi fare sbandare un uomo e non hai le curve, tirerà dritto. Cioè, in un'epoca in cui c'è il mito delle persone magre, eccetera. Però c'è anche il grande problema dell'anoressia, delle ragazze che, avendo giocato con le Barbie, hanno il problema di non somigliare alle Barbie. Ma tu lo sai che adesso in realtà le donne grasse, insomma, le donne con un po' di curve formose vanno di moda. Cioè, addirittura in America, dove sono sempre più avanti di noi, ci sono delle persone che ingrassano apposta, delle donne che ingrassano apposta, ti giuro, guarda, leggi Dago Spia, recentemente ha pubblicato un articolo sugli Stati Uniti. È un esperto Cruciani in questo. Il problema è uno esperto di donne. No, in generale, su questi temi, guarda, è uno. Meglio concave che convesse, voglio dire, se ti devi sdraiare su una donna, meglio che sia morbida come un divano che piena di spigoli, no? Sì, insomma, dipende anche lì, dipende da curva a curva, però è vero che le curve. Devi abbracciare, voglio dire. Poi guarda, la pancia, il seno, sono delle. Vanno verso il mondo, no? Vanno verso. Vabbè, adesso non possiamo fare troppo l'elogio del grasso, cioè troppo grasso è brutto. No, scusami, no, io non sto parlando. Io sto parlando delle persone che non si dannano, perché se tu sei una berlina non potrai mai essere una smart, capisci? Questo è vero. Questo è così, vero, questo se è la tua costituzione è questa. Cioè, ti devi accettare, dai, ti devi un po' accettare. Se tu hai un metabolismo da povero, io ho un metabolismo da povera, nel senso che trattengo tutto. Pensa ai neri che sono obesi, perché non mangiano sempre, per cui quando mangiano devono trattenere. Mentre invece quelli che hanno mangiato sempre, i principi, perché sono sempre magri? Gli aristocratici, perché hanno sempre mangiato? Allora, quindi non avevano il problema di Nel frattempo, Parenzo, stanno presentando a Roma. Mi devo fare proprio una lezione sulle donne morbide. No, ti voglio dire una cosa, però, Cruciani, che tu non sai, perché c'è una cosa adorabile della coppia Rizzo Tognazzi che non so se si può svelare, Izzo, ma la svegliamo. Izzo, e va bene anche Rizzo, che è un grande uomo politico. No, ma ho detto Izzo Tognazzi, che è una cosa straordinaria che ho scoperto a Genova quando ci siamo incontrati. Sempre delle cose no private. Questo si può, questo forse si può, che ma è stupendo. Sì, lui è così, ma perché lei, voglio applicarlo peggio, anch'io questo peggio. Cioè loro avevano non lo so ognuno ha un telefono, Simone Izzo ha il suo telefonino, il signor Tognazzi ha il suo telefonino, però io ero all'aeroporto di Genova, questo è normale, era all'aeroporto di Genova, e ho mandato un messaggino a Ricky, gli ho scritto guarda questo è il mio numero cellulare. Dopo 5 minuti arriva da dietro Simona e mi dice ah David, ma hai dato il tuo numero a Ricky? Dico scusa, ma come fai a saperlo? Come è possibile? E dice no, perché sai, noi abbiamo i telefonini sincronizzati, cioè ogni volta che Ricky, questo è bellissimo, io lo trovo stupendo. Ma guarda, Ricky non sa come, perché purtroppo adesso io leggo tutti i suoi messaggi, vuoi sapere l'ultimo che ho letto oggi? Ti voglio scopare domani mattina, no? Com'è? No, vabbè, che lo sai, dunque, quegli altri. Si è comprato un altro telefonino, questo quando ma è così? Non è vero. Per queste porcherie. La Maria Sole gli dice: senti, mio cognato sta cercando la Bellucci per un evento. Allora adesso non so se la Bellucci la sta cercando davvero lui o se la sta sto cercando mio cognato. Però scusa, andiamo al punto. Voi avete i telefoni sincronizzati? Sì, bellissimo. Ma è successo qualche cosa in questo mondo informatico? Non è che lo abbiamo fatto apposta. No, come no? L'avete fatto apposta? Ti giuro, no, ti giuro di no. Anche perché cioè, vi controllate ormai in questo modo? Ma no, ormai io ricevo tutto. Ma guarda che tanta gente ha questo telefono sincronico. Io ricevo tutti i suoi messaggi e lui riceve tutti i miei, per cui non possiamo mai. Beh, io lo potrei fare, certamente. No, tu io finito in 40 secondi. Tu saresti morto in 40 secondi. Comunque, tu. Guarda che la fedeltà è basata sul controllo. È come la dieta, devi controllarti. Ma pensi, no. Io non potrei mai. Il telefonino si dice tu e lui leggete i messaggi che vi arrivano in tutti. Copia. E poi abbiamo un solo indirizzo mail. Quindi anche ma questo. Ma è una follia. Bellissimo. Ma noi siamo sintonici. Io capisco che vi faccia un po' rato. No, a me piace. D'accordo. Io sono d'accordissimo e voglio applicarlo. Parenzo lo vuole fare. Io voglio applicare questa signora cosa. Signora Zevi, lei è d'accordo? Signora Zevi, lascia stare, va. La compagna di Parenzo che si chiama Natania Zevi, diciamolo, l'altro lo sanno tutti. Siamo Natania Zevi. Voglio sapere se è d'accordo con quest'idea di Parenzo, sincronizzare tutto, mail, messaggi, eccetera. Perché lui dice che mi aveva detto pure prima al telefono. Io lo voglio fare anch'io. Io orgoglioso, lo voglio fare anch'io. Che è straordinaria questa dinamica, Izzo. Tognazzi, no, hai aggiunto, lo voglio fare anch'io. Lo vorrei fare anch'io. Dillo, certo. Apertamente, dillo. Ma lo sto dicendo. Simona, scusa. Voi dovete assolutamente imparare da noi. Noi siamo insieme da 30 anni. Certo. Siamo in uno dei mondi più affascinanti. Come siamo me. Circondati da persone affascinanti. Vabbè, ma un cornino ve lo sarete messo in 30 anni o no? Mai. No, mai. Ma la fedeltà non esiste, Simona. La fedeltà non esiste, dai. È un impegno. Ma guarda, sai perché? Perché tanto il tradimento è un punto di non ritorno, cioè se tu hai un'altra storia, se io mi innamoro di un altro, ma non me ne frega più niente. Ma perché ti devi innamorare? Scusa, non c'è bisogno di innamorarsi per tradire, scusami, abbi pazienza. Vorrei suggerirti una cosa così sommessamente. No, va bene, allora se tu pensi che sia come fare ginnastica, ma no. Anche ogni tanto sì. Ma poi non fa nemmeno bene come la ginnastica vera, cioè voglio dirti che il tradimento è troppo impegnativo, è faticoso. Quello è vero, allora mi innamoro, poi tanto siete così, anche voi uomini fate questo, cioè voi dite con quella ci vado solo a letto, ma ti sembra poco? Ma sì, ma io con quella ci vado a letto, ma magari lei viene a letto con me, è uguale, la stessa cosa. Ma ti sembra poco? No, è tanto. No, perché voi minimizzare, l'uomo tende a minimizzare. Per me è come andare a prendere un caffè. No, ti prego, almeno un cappuccino. Ma lui è così. Cappuccino, caffè, ma lui è così, non ha valore. Ma non è addosso con la panna. C'è nell'atto sessuale, è un valore relativo. Tutti fissati col sesso, l'atto sessuale. La cosa importante non è il tradimento fisico, è la fedeltà mentale. Il tradimento fisico è un dettaglio. È una cosa di società. Tu, la signora Izzo deve saperlo, tu sei un maiale, perché hai dichiarato ad Ago Spia che addirittura ti piace e ti eccita vedere la tua compagna che sta con un altro. Certo, assolutamente. Assolutamente. Ma questa guarda che è una fantasia sessuale che hanno quasi tutti. Lo vedi? No, cioè, ma lui un conto è la fantasia, un conto è metterlo in pratica. Perché è la conquista, no? Deve rimanere una fantasia, perché altrimenti ti danni. Però invece è il desiderio di tornare a conquistare, perché il periodo bello, la caccia è il momento bello, poi finisce tutto. Dopo la caccia non c'è più niente ormai. Dopo la caccia c'è il cacciato e la preda. Vabbè, grazie. Dobbiamo rinvitare Simona Izzo un'altra volta. Ciao, allora, Simona. Forza Sampdoria e forza Roma, anche però non posso. E forza Milan. Sì, vabbè, poi che ancora c'è l'ecumenismo, c'è peggio del Papa. Ciao. No, va bene, ciao. Ciao. A Cruciani, a decaduto. Anticipazione di Renzi a Ballarò. Quando fa così Renzi mi fa eccitare, non c'è niente da fare. Quando attacca in questo modo, poi bisogna far seguire i fatti alle parole. Adesso pare che voglia dare i soldi del TFR in busta paga, 100 euro un anticipo, in realtà sono tassati di più, in busta paga è tutto un pastrocchio secondo alcuni. I lavoratori non è che ne sarebbero avvantaggiati con quella roba. Sentiamo, dai. È vero che, come dice D'Alema, lei ascolta di più Berlusconi, Verdini che la minoranza. D'Alema, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Tutte le volte che parla recupero un punto nei sondaggi. grande rispetto per tutti i sindacati, però dove erano i sindacati in questi anni in cui i diritti dei ragazzi venivano cancellati, in cui i diritti dei cassintegrati venivano improvvisamente svaniti? Il TFR è così com'è, c'è praticamente solo in Italia. La preoccupazione è che se diamo il TFR subito in busta paga ci sia un problema di liquidità per le piccolissime imprese, le grandi ce la fanno. Allora sulla base di questo stiamo ragionando del fatto che l'ABI, l'associazione delle banche, possa dare i soldi che arrivano dall'Europa, i soldi, quelli che chiediamo, i soldi di grande. Perché non capisci un cazzo, perché sei ignorante soprattutto. Zanzara, nuova puntata. Tipi da Zanzara. Beatrice, Firenze. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao. Sono una transessuale di Firenze, sì. E sono incazzata nera con quella, la Biancofiore che ha parlato prima, sì. Io mi sono rotta i coglioni, che non ho più perché mi sono operata, ma mi sono rotta i coglioni, sì. Ok, di queste, delle persone che pensano che le transessuali facciano solo le puttane. Io mi alzo alle 5 la mattina, alle 5 vado al lavoro e torno la sera alle 8, guadagno 1000 euro al mese, e questi qui ancora a dire che le transessuali fanno le puttane, il gingillo, la gingilla. Mi avete rotto i coglioni, siamo persone normali, viviamo da persone normali come gli altri. Mi sono rotta i coglioni di queste persone, mi sono rotta i coglioni anche delle transessuali zecche di merda, come dice Riccardo La Roma, perché faccio parte anche del gruppo di Riccardo La Roma. Come ti chiamavi prima, Beatrice? Come ti chiamavi? Simone. Poi t'hanno... Ciao, Riccardo. Quando hai fatto l'operazione, Beatrice? Tre anni fa a Pisa. Ti sei operato? Sto con il mio uomo, conviviamo da quasi 6 anni, cioè siamo persone normali. Cioè ormai sei donna a tutti gli effetti, insomma, questo, certo, ma anche, certo, per l'anagrafe, dico, anche per l'anagrafe. Certo, ho i documenti femminili. Non sei più transessuale, in realtà non sei più transessuale. È una signora. Lo siamo sempre. L'orgoglio transessuale c'è sempre, soprattutto quando sento queste cazzate pazzesche che la transessuale deve fare la puttana. Io, vabbè, non spesso ho mai succede, fatto la puttana, spesso, okay? Succede. Tipi da Zanzara. Alessandro, provincia di Rimini, dai. Sì, ciao Pare, ciao Cruzani. Vai, dimmi. Ti volevo dire che io ho ascoltato la tua trasmissione per la prima volta, ti volevo fare i complimenti a te, mi piace, finalmente non mi annoio. Vabbè, dai Alessandro, vai avanti, su. Hai ragione, non ho fatto modo di... ho dovuto telefonare perché ho ascoltato il tuo collega. Ma da dove sei collegato? Da Marte? Da dove sei collegato? Da Rimini. Sì, ma non si sente niente, amico mio, avvicina quel cazzo di bocca al telefono, dai. Sono vicino, volevo parlare con Parenzo, in difesa di quello lì che ha visto... Sì, eccomi qua. ...il telefonino di Sgarbi andare via. Mi senti? Sì, ah, quel sì. Quel salame lì maleducato. Non ho capito. Quel salame maleducato che ha chiamato prima. Alessandro, io maleducato. Vorrei capire una cosa, sei con l'auricolare? Sei in collegamento da... Non ho l'auricolare. No, hai qualcosa, non me la racconti giusta. Non ho niente. Adesso mi senti meglio, ho staccato il telefono. Dai, forza. Devo dirti che, scusa, una persona che scappa con un telefono in mano da dentro un autogrill, dove cazzo deve andare? Perché l'ha offeso? Ci sono rimasto male. Perché l'ha dovuto offendere? Beh, quello gli ha dato della testa di cazzo, eh. Cioè, quello gli ha dato... 4 secondi. No, Alessandro, quello gli ha dato subito della testa di cazzo. Non è che ci è andato leggero. Si chiama così. Gli ha dato della testa di cazzo. Allora, io l'ho già visto in televisione qualche volta e confermo quello che ha detto quel ragazzo. Benvenuto, buonasera. Secondo me dice solo stronzate, fallo parlare poco, perché noi telespettatori... Ascoltatori. Certo, non di gente così. Va bene, Marco da Pisa. Buonasera David, buonasera. Vai, dimmi Cosani. Marco, vai. Buonasera caro. No, mi ricollego alla telefonata dell'ascoltatore precedente. Sì. Anche a me non è piaciuta la risposta di David, ma non per il discorso del telefonino presunto ritrovato da Derrick, ma il fatto che sia un camionista, e il fatto che vada a Pantana, non significa che David lo debba giudicare. David, ma l'ha detto lui. Si erge a fustigatore. Ma sì, l'ha detto lui. L'ha detto lui, ma tu non devi dire non io puoi ho scherzato fare su quello, ma che mi frega vedi quello che fa lui, può fare quello che vuole. David, però vedi, quando Bonanno dice neger uguale portatore di malattie e tu dici camionista uguale frequentatore di puttane, ma chi l'ha detto? È una forma, è una forma di razzismo, e sottile, chi l'ha detto? Ma non così diversa. Ma io non l'ho mai quando detto questo, hai, non posso aver detto, lui ha detto, hai detto io adesso vi lascio puttana, e dico bravo, fatti un giretto, detto, il tuo mestiere, no? Ma non il tuo, perché manco sapevo che ero camionista, il tuo mestiere nel senso che sai quanto ti apprezzo no ma non hai capito sono, l'ho detto indipendentemente dal lavoro che fa e ho detto che è l'unico mestiere che evidentemente quel signore sa fare, non c'entra con la sua professione, per me può essere notaio, no, architetto, no, camionista, no, no, sì questo è vero, però guarda, ma l'ho detto in relazione cosa, al suo lavoro, vabbè, avanti, tu allora la cosa, no, ci vuole una, ma l'ho detto Marco, ti sto dicendo che l'ho detto non in relazione al suo lavoro di camionista, non mi poteva essere un avvocato, un notaio, un magistrato, un giornalista, si era comportato in modo volgare, ha detto una stupidaggine e gli ho detto va bene, vai a fare, no, l'unica, no, cosa, guarda, che sai fare di una vabbè, volgarità, allora hai ragione te, e di una stupidità devastante. Però e allora hai ragione te, l'unico e allora hai ragione tuo punto de... no, no, è stato volgarissimo lui. L'hai capito, non ha, male, non ha attenuanti, non ha attenuanti. Vabbè, allora David, no, che delle volte David, insomma, la lingua batte dove il dente duole, ogni tanto si erge a fustigatore delle virtù altrui. Ma non fustiga, va bene, non Antonio, provincia niente di Siracusa. Antonio, buonasera Cosciani, buonasera. Dimmi, dimmi. No, niente, stasera ho voluto chiamare per il fatto che, come hai detto all'inizio di trasmissione, che ne ho rubato il telefonino a Scarpa. Sì, sì, con tutti i numeri delle donne, documenti personali. No, questo è il punto, questo, cioè, è il punto. Abbiamo creato una società così elettronica, così veloce, così curiosa, così pettegola, che cerca sempre ai personaggi di danneggiarli, magari di rubargli il motorino, il telefonino. Vabbè, hanno rubato il telefonino a Sgarbi, questo è il punto fondamentale. Noi siamo qui impegnati notte e sì, giorno nel recupero di questi di questo cellulare, ma soprattutto dei dati di questo cellulare. Dunque facciamo un nuovo appello. Scusa, chiunque scusa, abbia Cusciani, rubato il telefonino dire a Sgarbi, il cellulare con i numeri, come dice lui, delle fighe, perché quello ha detto Sgarbi, l'ha detto lui, lo restituisca al professore, tanto non vale niente questo cellulare, altro che 1000 euro che è quello che vuole offrire, non vale niente. Antonio, dai. Ti volevo fare una parentesi, scusa, una parentesi. Poco fa ho sentito l'attrice Icciola, come si chiama? La Simona Icciola. Simona Icciola. Attrice, produttrice, eccetera, eccetera. Allora? Sì, un po' intelligente, un po' grassina, un po' bassina, aiutava le grassine, insomma. Volevo dire questo, che la buonanima del diverso Pasolini, che è intellettuale abbastanza di tutto cappello, diceva che il calcio rubava il cinema, scusa, fammi finire. Diceva che il calcio rubava allora la vita al cinema. Ecco, abbiamo il tipico esempio che anche gli vabbè attori, diciamo. Ma ciao amico mio, ma che sono, è un pazzo. Ciao. Ma darling, you got to let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? Allora ragazzi, la mia amica Chirico sta presentando il libro a Roma, sta presentando il libro a Roma, siamo tutti puttane, qui mi riconosco non al 100, al 200%, ha detto una frase fondamentale prima, una frase fondamentale da Twitter, la sto leggendo, Annalisa Chirico, eccola qua, la volevo ripetere, eccola qua, adesso ve la leggo, adesso ve la leggo. Quello sulla libertà. Sì, no, no, no, no, aspetta, adesso... Il sacrosanto diritto di darla per voglia, per amore, per opportunità. Per voglia è normale, per amore è normale, per opportunità. Il sacrosanto diritto di darla per voglia, per amore, per opportunità. Allora, abbiamo qui con noi la donna con le tette più grandi che c'è in, secondo me in Italia, non sì, esiste un'altra. Pensavo volessi approfondire in finale l'articolo 18, ma prego, va bene. Francesca Cipriani, Francesca, buonasera. Cipriani, buonasera. Ciao, ciao Francesca, come stai? Una volta ho visto Francesca Cipriani ferma alla stazione di Pescara, anch'io andavo a pescare con una parte della mia famiglia a Pescara, immobile, ferma con una sua amica, nulla, non la volevo importunare, dunque me ne sono andato. Sì, ah, dai, no, ma perché mi aspettavano. Sì, lo so, mi aspettavano, ma ero poi mi distraevi, non volevo. Allora, Francesca, voglio dire una cosa, ma che cos'è questa notizia pazzesca che tu sei disposta, saresti disposta per andare a fare la Playmate negli Stati Uniti a ingrandirti Parenzo, calmati, questa cosa qua. Ad aumentare le misure. Sentito alla direzione del PD di ieri di questo non si è parlato, però è interessante. No, non si è parlato, scusami, per fortuna sì, non si è parlato, sì. Ma io preferisco parlare di questo. Non ho capito, tu per fare le Playmate in America saresti disposta ad aumentarti la misura del seno? Allora, Playboy è il mio sogno, Playboy America. Playboy America è il tuo sogno, va bene. Devo dire che poi io sono anche cittadina americana, quindi una parte di America è in me. E un mio sogno sarebbe quello di posare per Playboy America, sì, mi piacerebbe tantissimo. Vabbè, però d'accordo, questo, ognuno, anch'io voglio fare, che ne so, vorrei diventare Obama, certo è più difficile che io diventi Obama. Ma no, che... dai, beh sì, è molto più difficile. È molto che più fare difficile Playboy, che sì, fare Playboy. Non c'è paragone, credo. Non c'è paragone, e però di cosa c'è bisogno? C'è bisogno che tu... No, dico, se lì mi dovessero chiedere in America comunque di essere ancora più maggiorata, perché no, insomma... Ma scusa, però scusa, Francesca, tu hai avuto un sacco di problemi col sedere. Adesso per fortuna sono stata risarcita e finita. E va benissimo, causa, d'accordo. Quindi... Beh, ottimo, sei stata risarcita per il sedere, per gli sbagli che hanno fatto quando ti sei rifatta il sedere. Certo, sì, comunque è stata una brutta esperienza. Quanto è, che misura hai di tette? Una sesta, settima. Cioè, tu vorresti... Ci vuole il patentino, ci vuole. Cioè, vorresti addirittura andare sulla nona, diciamo, sulla nona. Ma perché vediamo, no? Cioè, in America io proverò comunque. Per l'America, si fa tutto per l'America. Sì. USA. Per l'America, ti ricordi il film che era il film con Alberto Sordi? No? Anziché quello... la fuga dei cervelli, che mi parla la fuga delle tette. Mi pare, però, insomma. Ormai è tutto degradato. Vuoi la politica? Allora ti faccio sentire, Parenzo. No, non vuoi sentire Francesca Cipriani Daltorio? No, per perché si chiama così, Francesca Cipriani Daltorio, oppure sì, il doppio cognome. È nobile, nobile. Quindi, Cipriani Daltorio, spiegarci perché gli Stati Uniti è disposta a passare dalla settima, già la settima, alla nona di misura del seno. Anche questo è un gran tema. È un tema fondamentale, perché a me piacciono le perversioni dell'uomo. Cioè, questa è una perversione, se vogliamo, e a me piacciono molto le perversioni. Beh, ma per lei è uno strumento di lavoro, quindi deve migliorare. Vuoi sentire la politica? Allora, senti questa litigata tra la Picerno e Cacciari sull'articolo 18, sì, sul lavoro, ieri, questa rottura di coglioni pazzesca. Senti. Ma allora, cosa dice? L'articolo 18 è una parte, vorrei dire, minima di un progetto di riforma del lavoro che è molto molto ampio e che riguarda in realtà una riforma, io dico davvero epocale, perché per la prima volta, io non ho interrotto mai, se per Cacciari non è epocale occuparsi di tutte quelle persone che sono state escluse dalle ogni forma di tutela, a un certo punto Cacciari dice abbiate pietà di me. Ma quale epocale? Di cosa parlate? A me mi dà fastidio questa cosa, la riforma epocale. Non si è visto un cazzo fino adesso! La riforma epocale, che si è visto? Nulla! Occuparsi delle persone fuori. Allora abolite l'articolo 18 che c'è adesso. Abolitelo subito l'articolo 18. Ma avete paura ad abolirlo per quelli che ce l'hanno già, tra cui il sottoscritto. Avete paura ad abolirlo perché dopo avete paura della rivolta. No, si può fare, come no? Si potrebbe fare domani mattina. Ma diritti domani acquisiti, mattina, domani tuoi, ma che c'entra diritti acquisiti? I tuoi diritti acquisiti, ma che c'entra? Illicenziabile sei tu. Senti quest'altro Picerno Cacciari, senti. Quindi io non mi presto a questa lettura sbagliata e assolutamente parziale. Cosa la fa smarrire, professore? Per cui noi utilizziamo un aspetto marginalissimo, che è quello dell'articolo 18, per cui e aggiungo, ma perché l'avete tirato fuori una... allora sei marginalissimo. Vabbè, questa è la contraddizione su cui la chiama, cioè, sì, però stiamo parlando intanto di una cornice normativa. Io invito il professor Cacciari alla calma. La cornice normativa, ma quale, ma ha ragione Cacciari, ma siamo di fronte a giganti e a nani, e dai. Scusa un attimo, sto guardando la foto così per capire di cosa stiamo parlando. Signor D'Altorio, speriamo che il chirurgo estetico però non commetta altri errori, però passando dalla settima alla nona, se dovesse andare, no, in America. No, me lo auguro, però non è detto, vediamo. Non è detto, America. Vediamo, dipende. Se vogliono così, rimango così, però se dopo dicono... Se vuoi, no, ma io sto già vedendo la signora. Lì hanno delle misure diverse, cioè lì davvero sono maggiorate. Però madame, mi pare dalle foto che in questo momento... Quelle maggiorate in America che hanno la nona, non ho capito. Sì, sì, sì. Ah, proprio là è tutto esagerato, insomma, è tutta... A proposito di mammelle, qui, cari amici miei, abbiamo un signore che si potrebbe occupare, no, beh, adesso non voglio dire la volgarità della serata, però, insomma, di mammelle ne sa parecchio, perché devi sapere, Parenzo, che c'è un tizio di Brescia, fatica, di Malonno, che ha vinto il campionato mondiale di mungitura delle vacche. Che adesso non volevo dare la vacca sia D'Altorio, non c'è niente, ecco, appunto, non capisco, cioè, il legame è la mammella. Lei vola come un uccello, qui non c'è nessun doppio senso. No, il legame vola da una cosa all'altra. No, ma il legame, diciamo... è la mammella, ma c'è il legame, chiaro? Gianmario Ghirardi, buonasera. Buonasera. Quanti anni hai, Gianmario? 31 compiuti. Conosci la signora perché Cipriani? Fiatone? Cosa fa? Perché ciao. Sì. Ciao. La conosce la signora Cipriani? Sì. Sì, la vedo in TV. Beh, una volta, adesso non c'è sta più in TV. No, non è vero, tornerò. Ci sei meno. Senti, Gianmario, innanzitutto voglio capire una cosa. Com'è che si fa a vincere il campionato mondiale di mungitura delle vacche? Cioè, quali arti bisogna utilizzare sulle mammelle delle vacche, delle mucche? Spiega. Ma non c'è un trucco ben specifico. Beh, sì, quanto latte hai tirato giù? Qual è stata? Il Guinness dei primati? Sei entrato nel Guinness dei primati? Quasi 9 litri di latte da una vacca. Quanti litri? Quasi 9, per la precisione 8,8. 8,8 in quanto tempo? In 2 minuti. Ah, la cosa era così, tutti quanti avevano 2 minuti, 8,8 litri. Tutti 2 minuti e poi chi mungeva più latte era il vincitore. Però venivano non erano solamente italiani. Sì, c'erano diversi concorrenti, c'erano svizzeri, rumeni, indiani e poi anche un po' da tutta Italia. Gli indiani sono i più bravi, peraltro, mi dicono, sono tra i più bravi. Perché? Gli indiani. Chi ti ha detto che sono lo più so bravi? Perché hanno intanto lavorano in molte stalle del nord, perché sono quelli che hanno il rispetto degli animali, gli indiani, come tu sai benissimo, e quindi hanno un rapporto con la mano e la mammella molto molto sensibile. Però li ha battuti questo qua, Gianmario Ghirardi. Ma tu lo fai di mestiere, Gianmario, non ho capito. Tu quante... Io sono operaio, io lo faccio come hobby. Cioè, come hobby. Ah, come hobby io pure. Sì. Non sei manco un agricoltore, cioè non c'hai manco non le vacche. Sono un agricoltore, no, io sono un operaio, però io sono cresciuto fin da piccolo in un'azienda agricola. E poi... Come ti viene in mente di partecipare al campionato del mondo di mungitura delle vacche? No, perché questa è una perversione pure questa. Tu vai a correre e lui va a fare... Cioè, perché partecipi al campionato... È stato un po' una sfida così personale. Tentiamo, proviamo. Così. Ma che abilità bisogna avere? Bisogna saper strizzare velocemente? Bisogna... È una velocità di polso e di mani, e poi soprattutto bisogna avere anche un animale adatto che ti consente per poter fare. Cioè, animale adatto che vuol dire? In modo che abbia capezzoli molto larghi che fuoriesca latte più non posso. Vabbè, quello però vale per tutti. Tutti quanti mungevano la stessa vacca o no? No, forse no. No, perché no, è vero, sì. Beh, certo, sennò è impossibile. Ogni concorrente si portava la propria vacca, si portava. Ah, tu ti sei portato la tua o te l'hanno prestata sta vacca? Sempre l'animale, la vacca, signori, sempre l'animale, no, la donna, per carità di Dio. Sempre l'animale. Io me la sono portata. Te la sei portata con i capezzoli belli grossi, belli larghi? Sì, esattamente, bello preparato. E com'è che avviene manualmente? Con che rumore si sente proprio manualmente? Ma è come strizzare una tetta o no? No. Ecco. Sì. Come, più o meno è come strizzare. Come si? Scusi, io mi aspettavo che dicessi il contrario. Come si? No, è uguale. Cioè, come strizzare le tette, uguale. Uguale, cosa dice? Uguale, uguale. Ma cioè, tu strizzi le tette allo stesso modo. Ma anche tu, Cruciani, potresti diventare un campione. Cioè, tu strizzi le tette alle donne nello stesso modo, Giovanni? No, no, dai. Adesso scherziamo, però no, dai. E si parla di animali, non di donne. No, dai. Beh, però tu dici bisogna avere una manualità che si usa anche con le donne, o sbaglio? No. No. Con le donne è tutta un'altra cosa, dai. Vabbè, no, comunque no. Aveva questi capezzoli grossi, veniva giù latte in abbondanza, 8 litri e 8. Hai vinto. Sì. Strano, Parenzo, qualche... era... No, voglio dire, stavo verificando anche sul Corriere della Sera. Ma no, ti eccita, ti eccita un po' l'animale. La mucca ti eccita, no, Gianmario. Ma francamente. No, per l'amore di Dio. Stavo verificando. Ma soffre secondo te l'animale, no? No, assolutamente. Ma gli animalisti ci hanno rotto i coglioni per una settimana dicendo che soffre. No, infatti è tutto il contrario, perché hanno scritto, volgarmente parlando, solo delle grandi cazzate. Perché un animale quando lo mungi si rilassa. Quindi è tutto il contrario. Chi ha scritto quelle cazzate lì è perché non ha mai provato a fare quello che abbiamo Anzi, fatto. Anzi, gode un po' l'animale. Esattamente, perché l'animale si rilassa. Sì, stavo guardando le notizie della Repubblica.it, stai vedendo questa. Dunque, al primo posto c'è Renzi sul Jobs Act, al secondo posto c'è Landini, al terzo c'è la Siria, poi vado giù, dico al quarto c'è un commento sulla pistola elettrica, al quinto c'è l'auto blu. Ah, la pistola elettrica, è vero. Poi la c'è il CSM, non abbiamo trovo detto nulla sulla pistola elettrica. La notizia domani. Sulla mucca, qui. No, la mucca no, la mucca è stata una notizia, ma se ne sono occupati tutti, stai scherzando. Ciao Cipriani, lei la conosceva questa notizia del campionato mondiale di mungitura di vacca? No, non lo sapevo, però sapevo che per l'animale è bello. Diciamo un sollievo quando viene tolto il latte, questo lo sapevo. Scusi, ma lei gli uomini di fronte alla sua, come dire, al suo seno, alla sua settima e forse nel futuro anche alla nona, che atteggiamento hanno? Cioè, sono più arrapati o sono spaventati? Dipende sempre dall'uomo. Vabbè, quello sicuro. In media, facciamo una media. Il appariscente viene guardato sia da uomini che da donne, sotto la scolatura, quello è normale. Vabbè, ma la media, facciamo una percentuale, diciamo, sono gli uomini che sono più arrapati dal suo seno oppure quelli più spaventati? Guarda, anche se, scolatura o non scolatura, gli uomini, non c'è bisogno che lo dico io, insomma, quello che è. Quello che guardano sono più arrapati, cioè spaventati non sono. Che dobbiamo fare? Ghirardi, lei piace come la donna con le tette enormi come la signora Cipriani oppure una più moderata, insomma, dato che è esperto in materia? Io personalmente un po' più moderate. Però sinceramente non mi dispiacciono neanche così. Vabbè, ma lei, ma che siete tutti democristiani? Va bene quello, non va bene questa? Dite una parola definitiva. Mi piacciono quelle un po' più piccole, dai. Che c'è, Parenzo? No, voglio dire, adesso sto mandando un messaggino a De Bortoli perché c'è questa cosa clamorosa. Sì. Ghirardi, dell'incontro, scusa, c'è un incontro fondamentale. L'incontro è un incontro al vertice tra la persona che ha, come dire, il campione mondiale di mungitura delle vacche e la persona che probabilmente ha uno dei seni più grandi in Italia. Io dico solo questo, cioè un incontro vertice mai realizzato, diciamola tutta. Beh, sicuro, vabbè, sarà un motivo. Scusa. Ci sarà un motivo, sì. Certo. Vabbè, adesso vi saluto. Ciao Francesca, a presto. Scusa, ma parteciperai al Grande Fratello di Mediaset o no? Francesca? Sì. Ho già fatto il Grande Fratello, un'altra volta. Che ne so, lo rifaresti? Sì, naturalmente. Ma sì, certo, è stata la prima esperienza che mi ha dato la possibilità di poter entrare nel mondo dello spettacolo, una importante vetrina. Però l'ho già fatto nel 2006. Dunque è difficile. Vabbè, ciao Francesca, ciao. Ciao ragazzi. Gianmario, ciao. Ma dopo... way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. Allora, senti che scrive Flavio Avento su Twitter, so che ti interessano a te le cose di Renzi, eccetera, però Flavio Avento su Twitter scrive: quando mi gireranno i coglioni che non ho, sputtanerò mezza Italia che ci ha provato con me e ha preso picche. Mamma mia, che cattiveria, oh. Mamma mia. Fabrizio da Lucca. Fabrizio. Pronto? Dimmi. Sì, ciao. Allora, buonasera a Cruciani e a tutti gli altri. Volevo dire una cosa semplicemente su Berlusconi. Berlusconi ormai non... Che ha fatto più. Berlusconi? Berlusconi non c'è più e c'è Renzi. Prima si parlava sempre di Berlusconi, dei suoi affari, degli inciuci e soprattutto di tutto ciò che ruotava attorno a Berlusconi. Chiaramente vedi la Minetti, Letta, grazie a Berlusconi, eccetera. Che è successo? Che Parenzo sputava addosso a tutti quelli che erano nella ruota di Berlusconi. Perché? Perché Berlusconi si sa chi era, eccetera. La domanda è, mi pongo, che io mi sono sempre posto, ma Parenzo, che ha lavorato per due editori truffaldini, ma non truffaldini, ma veramente delle merde che hanno truffato, ma lui, sapendo che erano delle merde dei truffaldini, ma veramente non lo sapeva prima. Ma intanto, come non lo sapeva? Intanto lascia finire. Dica per chi ho lavorato, che intanto vediamo che cosa allude. No, a cosa allude lei? No, lo sai benissimo. Io ho lavorato, scusi? Nelle Marche, mi sembra che era l'editore. Non ho mai lavorato nelle Marche, ho lavorato a Roma per un periodo, ho fatto il direttore di un giornale che si chiama Il Clandestino. Mi sono dimesso e ho denunciato l'editore quel giornale. E quindi lei per questo si prenderà una bella querela se mi dice che sono responsabile di qualcosa. Perché lei è lei è un coglione. Io sono stato vittima di una truffa, capito? Vittima di una truffa. E ho denunciato l'editore di quel giornale. Io e molti altri. Cioè che siccome lui ha lavorato per editori truffaldini, sono stato vittima di quegli editori. L'hai già detto, siccome hai lavorato per questi qua, allora che qual è la sua colpa? Non ho capito. La sua colpa è, siccome tutti i cazzoni che hanno lavorato per Berlusconi, eletti grazie a Berlusconi, che hanno avuto dei vantaggi, erano dei cazzoni perché era Berlusconi. Lui invece, che ha girato intorno, ha lavorato, ha fatto contratti con questo qua, allora lui perché ho denunciato? Vabbè, Fabrizio, ci dobbiamo. L'editore di questo giornale, ma denuncio anche te, ti becchi una querela così mi pago le vacanze a Natale. Questo lo denuncio sicuro. Iorio, sicuro. Pronto? Dimmi, Iorio. Ok, io ho telefonato perché è un pezzo che sono qui che aspetto. Sono Cruciani, buonasera a tutti. Dai, veloce però, che dobbiamo chiudere, No, no, io volevo dire solo questo. Visto che lei è un giornalista, se mi potete spiegare perché il signor Renzi, quando è andato in America, si è preso con sé Casini. Allora, io voglio capire se il signor Casini va in giro con i nostri soldi. Fa un mestiere usurante questo signore qua. Ma che c'entra Casini? Con me non se la fila più nessuno, non dice più niente, è scomparso dalla vita pubblica. Perché lo riesuma così? Perché lo fa riemergere così dal nulla? Ci sentiamo domani. Io non ho il dono degli artisti che stanno lì. Io sono un uomo distintivo, sono un uomo di momenti, sono un last minute, faccio quello che penso. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È più bello so io, perché so bullo e bello e non truccato. Radio 24, la passione si sente.